Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Mi sono informato di quanti fossero i cani in Italia e di quanti fossero gli altri animali domestici che danno serenità. Sono arrivato a conoscere delle cifre che non avrei mai immaginato. In Italia ci sono 7 milioni di cani denunciati, ma almeno un altro milione di cani nei piccoli paesi che non sono denunciati. Perciò 8 milioni di cani. Gatti, 12 milioni di gatti. Quante sono le persone che si innamorano, sono innamorate, ricambiatissime da questi animali? Penso 10, 12, 15 milioni, perché molti hanno cani e gatti insieme. Certo. È una favola quella che un cane non possa andare d'accordo con un gatto. Ora, io ho grande cautela per non fare nulla che possa in qualche maniera influenzare le volontà di preferenza nelle ultime e prossime elezioni europee. Però non posso fare a meno di osservare un dato che mi interessa, col quale mi interessa confrontarmi questa mattina con il mio pubblico. Ieri c'è stato un confronto differenziato in televisione. Renzi era su Rai 3 con l'Annunziata, Berlusconi era con la D'Urso in Domenica Live, hanno parlato dei loro programmi così. Ma alla fine proprio dell'intervento di Silvio Berlusconi c'è stata questa sorprendente presa di posizione, che è stata già anticipata qualche tempo fa con il cagnolino in braccio, l'ha preso lui, poi l'aveva preso anche Monti per non essere da meno, poi c'è stata la storia di Duma, però ieri è stato molto chiaro, molto preciso. Siccome tutto si può dire, meno che non si tratti di persona che sa cogliere in pieno quelle che sono le sensibilità del paese, soprattutto la pancia importante del paese, perché si rivolge a delle persone dalle quali vuole essere votato, e questo non sia un paese fatto di giovincelli, mi sembra un dato scontato, ma che le persone non giovani di questo paese abbiano questa sorta ormai di rapporto viscerale, totalizzante, radicale con cani e gatti, sembra ormai un dato, visto che è stata fatta una così profonda e capillare analisi demografica di canari e gattari. Beh, questa mattina mi voglio rivolgere agli ascoltatori in ascolto. So che molte volte ho trattato questo argomento con alimentando divergenza, alimentando ironia, alimentando odio. Beh, questa mattina invece voglio la vola conferma. È vero che un cane e un gatto allungano la vita, e se è vero che un cane e un gatto allungano la vita, è giusto che cani e gatti debbano a questo punto avere una presa di coscienza nei confronti degli esseri umani, che abbiano uguali doveri, uguali diritti e totale uguaglianza. Cani e gatti amano e sono riamati gli esseri umani, quindi fra noi cani e gatti non esiste qualitativamente e geneticamente e dal punto di vista della dignità, dal punto di vista della possibilità di esistenza, di vita, di assistenza, di considerazione, nessuna differenza. La pensate così? 800 24 00 24. In Italia ci sono 150.000 cani nei canili comunali, 150.000 prigionieri. Io dico che ogni club ha il mandato di cercare un papà, una mamma per i cani che sono in prigione. Allora io penso che se noi riusciremo a fare questo con 12.000 club, potremo addirittura arrivare a vuotare i canili comunali, che tra l'altro costano alla collettività 260 milioni all'anno. Ma qualcuno mi ha fatto un'obiezione e mi ha detto: ma questi sono animali grandi. Anche perché devo dire che, osservando anche dei luoghi in cui non necessariamente si confrontano e si incontrano persone attempate, come ad esempio i social network, è molto facile vedere che oggi esiste una profonda e radicale deriva di alcune manifestazioni esteriori, come la tenerezza, la compassione, l'apprensione, il desiderio di affrancamento e di liberazione, dagli esseri umani agli animali. È sempre più frequente, abbiamo detto, le foto di poveri gattini abbandonati, di poveri cagnolini scorticati, di teneri animaletti maltrattati, che è una cosa che non c'è nulla da eccepire, Non voglio dare qui l'impressione di persona insensibile, odiatore degli animali o il pericolo pubblico numero uno che ogni gattara teme che possa attentare alla tranquillità e alla compattezza dei propri animalucci. Però mi lascia qualche perplessità col quale vorrei confrontarmi con le persone che mi ascoltano. Può essere che io mi sbagli, vengo da una civiltà radicalmente contadina e quindi conosco bene il rapporto fra uomo e animale e conosco la considerazione che hanno sempre avuto gli uomini degli animali quando li hanno usati per il loro lavoro domestico, ma anche gli animali di semplice compagnia. Mi lascia un po' non in grado di valutarlo in pieno questo fenomeno che coglie la contemporaneità, dai giovani nativi digitali che si muovono nei social media fino agli anziani che in attesa che sia pronta la minestrina guardano la televisione della domenica pomeriggio e dicono che bello, ci aumenteranno a tutti la pensione così potremo mantenerci un cagnolino e un gattino che ci allungherà la vita. Per questa era la sintesi del discorso di Silvio Berlusconi. Preso da un canile municipale e tenuto vicino a sé dal nuovo padrone che gli dà il pranzo e la cena, gli dà una carezza, in 3 giorni diventa attaccato totalmente, diventa innamorato del suo padrone, diventa un nemico leale per sempre. E se qualcuno dice che questa cosa avviene consapevolmente, perché il cane fa il paragone tra la vita che questo signore gli dà. Adesso la fermo un attimo perché sennò ripropongo tale quale il discorso, però mi è sembrato abbastanza interessante come dato sociologico che la televisione rivolta a un pubblico quanto mai generalista, tradizionalista, piuttosto agé, conservatore, che dovrebbe poi comunque esprimere un voto in quella direzione, sia un pubblico che al contempo ami in questo momento, come mai è avvenuto prima nella storia, non tanto un discorso di miglioramento della propria qualità di vita, dei propri mezzi di sussistenza, delle proprie capacità e potenzialità di felicità, no, di avere vicino un cane e un gatto che possa allungargli la vita. Questo è un dato interessante. Clementina, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletti. I gatti allungano la vita? Certamente, io ho 7 gatti in casa e in questo momento sto andando a fare il mio volontariato in gattile. Ah, quindi è una gattara, detto senza... Sono orgogliosamente e felicemente gattara. E quindi lei va con i suoi cartoccetti a dare da mangiare ai poveri gattini abbandonati? Che cartoccetti? Io ho un gattile che è costato 35.000 euro e che costa 2.000 euro di veterinario al mese. Ho un gattile che è un resort a 4 stelle, i cartoccetti... No, io sa perché ho dei problemi banalissimi, trovare dei posti per i ragazzi autistici, altre cose così. Mi viene a pensare che è stata brava lei... imprenditorialmente a rimettere insieme una cosa del genere, bisognerebbe prendere esempio. Non solo io, in Italia siamo tantissimi, siamo tante associazioni, siamo tanti che lavoriamo sui cani e gatti, ci sono gattili lager in Italia, ci sono bellissimi gattili, ci sono canili lager, ci sono bei canili. Quindi diciamo il famoso decreto svuota canili che è stato annunciato ieri. Guardi, ha un suo fondamento. Guardi, io sono la più berlusconiana che esista sulla faccia della terra. Anti-berlusconiana, mi scusi. Anti-berlusconiana. Ora, che Berlusconi debba venire fuori con queste cose è veramente, vomitevole, potrei usare una parola... Però scusi signora, ma mi dà conferma al mio sospetto, vi ha colto nel cuore. Lei è anti-berlusconiana, di fronte a uno che vi libera tutti i cani dai canili. No, il fatto è che non libera niente, è stato 20 anni al governo, cosa ha fatto? Uno può sempre illuminarsi... Voglio dire, questo è un paese in cui essere cani ed essere gatti può essere molto facile e può essere molto difficile. Sì, ma anche essere malati, essere handicappati, essere disabili, essere vecchi, essere tante cose è difficile. Ognuno ha la sua scala di priorità. Sì, certo, chiaro. Ognuno ha i suoi problemi, chiaro. Ognuno spende la propria solidarietà. Chi c'ha i figli, chi c'ha i gatti. No, e quello che volevo dire è che Berlusconi non pensi di imbrogliare gli animalisti, perché gli animalisti... Non ci cadete. vediamo, perché esiste in Italia una legge sul randagismo che è un'ottima legge, a cui le istituzioni disattendono puntualmente. Il caso della Puglia è eclatante. Vabbè, adesso entriamo troppo nello specifico. Mi sembra che sia chiaro comunque il suo punto di vista, il punto di vista di una gattara orgogliosa di sé, perché ha sempre seguito questa legge, dice però attenzione, è difficile che ci prendiamo in giro. Walter. Sì, sono io, buongiorno. Lei cosa è? Ma io sono pensionato, 74enne, è stato contadino fino a 25 anni. Lei ha animali per vivere di più? Lì c'era di più. Adesso, quanto le aumenta in media la vita un animale? Prego? Quanto le aumenta in media la vita un animale? Gli animali, poi attenzione, abbiamo il vizio di tenerne uno, ma quando ce n'hai 5 o 6... è un discorso che... Io pensavo che magari averci un bel maialetto, qualche pollastrello ruspante aiutasse di più a star bene. Però... naturalmente, quando c'era contadini naturalmente era ancora di più di uno zoo. Però adesso che niente, sono sì, in pensione... Era uno zoo che aveva un turnover molto veloce, perché le galline gli stiravano il collo, maiali si facevano i prosciutti. Non è che tu li teneva lì per compagnia. Quello, ognuno fa il proprio mestiere. Una cosa è certa, a me è successo adesso un qualcosa che io vado davanti al giudice per davvero. Non che so è successo? Che è successo? Ma una cosa molto semplice. Si presentano quattro persone un anno fa, sono persone che parlano il mio dialetto, perciò non li conosco, ma sono lì, non hanno un cartellino, non hanno niente. Dice, sappiamo che lei c'ha una colonia. E siamo venuti per controllare, portarli. E quanti ne aveva lei di gatti? Quanti ne aveva di gatti? Erano 13. Non è una cosa tanto. Ma non porta male 13 cosa... gatti come a tavola 13 persone, no? Ma sono tutte storie, sono tutte favole. Cosa hanno fatto questi signori? Ricordo... questi signori? Come erano vestiti in nero con degli occhiali neri? No, ascolti, sono persone normalissime, cosiddetti volontari, vengono e mi dicono, guarda che vabbè, a 74 anni sono scemo e te mi puoi prendere in giro. Dice, no, ma i mici noi li portiamo dal veterinario. Dico, guarda, invece... signori, che vado io dal veterinario, ci sono andato, ci tengo dietro, e poi un animale, quando lo conosci e sai cos'è un animale, prendi la medicina una volta. Ma come è andata a finire? Ci dica la storia, perché sennò devo dare... È andato a finire? No, è semplicissimo. Li ho denunciati perché a distanza di un anno, io li ho denunciati dopo un mese. A distanza di un anno non so che fine hanno fatto i gatti. Ma cos'erano dei rapitori di gatti? Rapivano i gatti? Poi che ci facevano? Che ci facevano poi quei gatti che portavano via? Ma che ne so io. Forse le pellicce... No, ma li dico in particolare, il gatto a un certo punto, uno che conosce gli animali, lo cura pure lui, certo, dai da mangiare, poi quando... Comunque il suo messaggio, i messaggi da fatti alla popolazione, bisogna anche stare molto attenti, queste persone malintenzionate, ladri di gatti, rapitori, commercianti clandestini di pelliccia di gatto, non so bene cosa siano, che vanno in giro con la scusa, senza tesserino, di preoccuparsi per la salute dei gatti, in realtà li portano via e dei gattini non si ha più notizia. Paola. Buongiorno dottor Nicoletti, sì. Era solo per lamentarmi, penso che specialmente le signore portino a spasso cani, perché i gatti non li vedo mai a passeggio, vanno per stanno nei cestini. Soprattutto per fare amicizia, perché è così evidente, cioè si incontrano, vedono qualche signore, come sta il suo cane, ha mangiato, non ha mangiato. Cioè per rimediare amicizia portano il cagnolino. Nicoletti, assolutamente. Vabbè, mica un peccato, sì. C'è chi si mette i tacchi a spillo e reggicalze, chi va col cane. Va bene, di contro, sapevo che lei mi avrebbe detto così, di contro, io non sopporto questa puzza di urina e questi escrementi per le strade. Ma nessuno fa molto piacere, in verità. Ecco, dottor Nicoletti, ma perché non risolvono questa cosa? Cioè persone che escono tardi la sera apposta per lasciare per terra, e sono una berlusconiana, guardi, mi ha dato un dispiacere. Dovrebbe aggiungere, al programma elettorale, oltre che dare soldi in più ai pensionati, mantenere il gatto e il cane, dare pet therapy per tutti, anche sacchetto, raccogli merda per tutti, non so come si chiami adesso? Ma lei ha un'idea di che cosa significa raccogliere? Guarda, io vivo in un quartiere che è Prati a Roma, che è un quartiere bellissimo, ma con i marciapiedi bisogna fare lo slalom. Che vergogna, dottor Nicoletti. Vabbè, adesso ne esageriamo, si le vergogna. Faccia una campagna, proprio non la sopporto. Poi no, ma io ho avuto il cane per tanti anni, quindi so esattamente significa. È che non voglio fare la fatica. Poi gli ultimi scampoli di giardino libero sono talmente occupati che... La pellicetta del gatto mi è piaciuta, perché sono convinta che le giacchette che compriamo dai cinesi, la pellicetta è di gatto. Beh, certo, di che deve essere, mica delle cinesi, chiaro. Ci fermiamo un attimo. Melog, cronache meridiane. Che ti fa dire che quando un anziano ha quei livelli di pensione che lei mi ha ricordato, non ci stanno dentro i 500 euro, pressappoco i 100 euro che costa un cagnolino al mese. Quindi io credo che anche nel nostro programma di governo ci saranno dei provvedimenti per quelle che sono le cure veterinarie, per l'assoluta cancellazione dell'IVA sui prodotti per cagnolini e cose di questo genere, anche addirittura che possono arrivare ai 100 euro al mese se uno ha una pensione inferiore a 500. Diciamo che il povero pensionato, piuttosto che andare al supermercato e comperarsi, che ne so, il patè d'olive, il tonno in scatola, conviene compra il ciappi e paga meno l'IVA e tutto direttamente a questo punto. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno a voi. È contento lei di questo abbassamento dell'IVA sui prodotti per cani e gatti? Sì. Sarebbe estremamente auspicabile. Una mano santa, certo. Lei quanti animali ha? 8. 8 animali. Quanto spende lei in media? È vero? Costa 100 euro al mese un cane? No, molto meno, molto meno. Vabbè, magari è un cane di lusso, un dipende. Pensionato vuol tenere un cane... No, va bene. Perché... ci mette il parrucchiere, scusi, no, il parrucchiere, il tolettatore. Porre il problema... No, sì, vabbè. Allora, il problema porlo direttamente sotto il profilo del costo, secondo me, è mal posto. Spieghi. Bisogna industriarsi con tutte quante le associazioni che... operano sul territorio. Ma i gatti non potrebbero mangiare i topi? No, forse dopo si arrabbiano gli animalisti che salvano i topini dagli stabulari. Si è rotta un po' la catena, la catena alimentare si è un po' rotta. Da parte degli animalisti che sono costretti per lo più a dar da mangiare. Ma cosa si dà al tofu ai gatti? Cosa si dà al tofu e la soia? Cosa gli si dà ai gatti? Se non volesse dagli animali? Non lo so, io do soltanto del mangime, diciamo. Mangime per gatti. Mangime per gatti. Cioè quella specie di cosa. Quello che volevo dire io era che una rinnovata sensibilità. Chiedo scusa se posso ripetere, ma c'ho un ritorno fastidioso. E purtroppo sì, è quello che deve subire chi parla alla radio. Sì, mi perdoni. Allora, il discorso è questo: una rinnovata sensibilità nei confronti di un sentimento autenticamente antispecista, nel senso che si comincia a guardare agli animali come esseri senzienti. Penso che possa essere un bel passo avanti. Ma comunque sta circolando, questa è un'idea che sta circolando quasi come una religione, quindi merita il rispetto che merita qualsiasi convinzione. Pieno rispetto, diciamo, non la condivido fino in fondo, però ne ho rispetto, non c'è nessun problema. Io devo dire che bisogna viverci insieme con gli animali. Ma io ci ho vissuto tanti anni, perché guardi, ho avuto cani, finché non ho avuto i figli, che i cani azzannavano i figli, ho tenuto i cani, poi ho scelto i figli, forse ho sbagliato. Il grosso problema è proprio quello, nel senso che la maggior parte delle persone tiene il cane in casa fino a che non nasce il bambino, dopodiché il cane va fuori casa... E il bambino. Vabbè, sa, alla terza zannata vedere un bambinello che sanguinava mi ha fatto un po' senso. Non è che ho fatto nulla, l'ho regalato a un amico. C'è stata una vicenda molto dolorosa. Vabbè, stringiamo. Vincenzo, se no riprendiamo l'argomento. Adesso mi importava sapere sul mantenimento quotidiano. Grazie, Vincenzo. Maria, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletti. Io parlo da Trieste. Da Trieste io sono molto arrabbiata perché la città è piena di cani, perché c'è gente che ne ha 3-4 e mica, naturalmente mica insozzano tutte le strade, i marciapiedi e quant'altro, che io divento idrofoba quando... Ma mica è colpa dei cani, è colpa dei padroni che non puliscono. No, no, ma guardi, quando uno ha un cane, sa che cosa? Una volta c'era la multa su quello che facevano le deviazioni dei cani, poi l'hanno tolta perché se facessero ancora ed essero delle multe molto sostanziose, queste persone si guarderebbero bene. Ma Trieste non usa il sacchettino, il sacchettino per la raccolta non si usa Trieste. Ma guardi, ce l'hanno, ma non ne vogliono sapere, perché... Beh, oddio, prenderla in mano calda e fumante non è che dia proprio il massimo. No, prenderla in mano calda e fumante non è che sia proprio il massimo. Ma guardi, io la farei mangiare, tanto per essere... Va bene, abbiamo capito, grazie Maria. Carlo, buongiorno. Carlo, buongiorno. Cambiamo argomento, sennò siamo sotto pranzo. Buongiorno. Sì, Carlo. Nicoletti, buongiorno. Sì. Nulla, una protesta. Io pure, come lei, sono cresciuto con i cani, amo gli animali, ho un cane e un gatto fuori di casa, però adesso sono stato in Sardegna e io sono rimasto scioccato. Con i traghetti non c'è più lo spazio per mettere dentro gli animali, ma vanno in giro per tutto il traghetto facendo le loro cose sulla moquette da tutte le parti. Vabbè, non è proprio, cioè, se li vedono li cacciano, li multano. No. È ammesso. Pieno di cani, sono stato in Sardegna, sono ritornato, entrambi i traghetti pieni di cani in giro per le nelle curne, dappertutto. Ma non che facciano i bisogni sulla moquette così? Eh sì, qualcuno l'ho visto che stava facendo... È l'abbassamento di un pregiudizio specista, come diceva prima, giustamente. No, Nicoletti, io protesto perché abbiamo passato ogni limite, con tutto il mio amore per gli animali, ripeto. Cioè lei pensi quante vite di anziani allungate grazie a quegli animali? Ci sarà un vantaggio? Ho capito, ma qui è la mancanza di rispetto verso gli altri. Cioè, dovremmo abituarci questo. Forse. Lo so, che devo dire. Rachele, buongiorno. Rachele è caduta. Carlo, ti abbiamo già sentito. Siamo arrivati alla fine. Beh, manca un minuto, che devo dire? No, mancano più minuti, però non ci sono ascoltatori. Andiamo avanti, allora, andiamo avanti per capire quali sono le proposte che ci vengono fatte su questo pericoloso e anche un po' peloso argomento. Queste nostre comunità, questi nostri club, devono cercare, se c'è un anziano che ha il cagnolino e che non ha i mezzi per garantirgli le cure mediche, di mettere a disposizione di questi anziani un veterinario con una cadenza periodica ogni settimana a spese del club, no? Naturalmente vanno oltre i nostri ascoltatori, chiedono, giustamente, questa è da mettere in agenda, anche il giorno di malattia pagata al padrone nel caso di malore del gatto. Certo, il gattino c'ha la diarrea, il cane c'ha il torcibudello, è chiaro che io devo prendere un giorno dal lavoro perché devo portarlo al veterinario o perlomeno assisterlo moralmente, e si allarga quindi la sfera dei bisogni. Patrizia, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, io sono una, adoro gli animali, ne ho quattro cani e il gatto, sono d'accordo però con tutti quelli che si lamentano per la sporcizia che i padroni civili lasciano in giro, però direi che non è quello il punto principale, certo, chiaro. L'argomento non è questo. Quella è inciviltà umana, non c'entra nulla. Dico solo che mi dà fastidio che per raccogliere voti si ricorra agli animali, quando appunto qualche mese fa i ministri del governo stavano pensando addirittura di tassare la proprietà dei cani e gatti. Questo non lo sapevo, quale governo? Sì, mi ricordo che, guardi, qualche mese fa c'era addirittura qualche ministro, qualcuno del governo che aveva proposto di tassare cani e gatti. Il problema è la mancanza di civiltà di questo paese nei confronti degli animali. Io so che lei è un po', cioè lei ha sempre un po' questa ironia, perché anche stamattina parlando con gli animali si vede che è un po' ironico. Beh, certo, mi fa ridere a me la gente che sbaciucchia cani e gatti come se fossero cristiani, esseri umani. No, però al tempo stesso non c'è. Ho sempre avuto animali dalla nascita fino ai 45 anni, ho sempre avuto cani, gatti, animali, ho una madre gattara, ho vissuto in campagna, quindi figuriamoci, a me non dà nessun problema un cane e un gatto, è l'umanizzazione dell'animale che mi sembra indegno. Però è anche vero, mi creda, che la Natale molto spesso, è una tale compagnia per il mondo che c'è, con la solitudine. Ma non discuto. Con Berlusconi non è discuto. Che veramente gli anziani sono aiutati. Poveracci, perché siamo un paese incivile? Io direi siamo un paese incivile perché lasciamo che gli anziani appassiscano nella solitudine. Questo è verissimo. No, però gli diamo i cani per supplire, perché allora i giapponesi in Giappone hanno studiato dei robot perfetti a forma di animaletto. Non sono viventi. Sì, sì, però l'effetto è lo stesso. Ma non è vero, non è la stessa cosa. Sì, sì. Quella pet therapy non è una cosa di ieri o di oggi o di Berlusconi. Sì, sì. La pet therapy è una cosa che è stata scientificamente è un parolone. È un parolone, non è stata. Addirittura portano nei cani negli ospedali con i bambini. Ce li portano, non è una terapia, è una maniera per farli passare il tempo. Lo so, guardi, creda, conosco bene perché mio figlio va a cavallo, mio figlio è disabile. L'ipoterapia è un'altra. Ma non è una terapia, è una maniera utile, interessante e molto stimolante per il ragazzo. Ma terapia è qualcosa di diverso, non ha una validità da questo punto di vista. Niente, sono tantissime telefonate, vorrei andare avanti a oltranza, poi mi fermo qui. Mi sembra che però ancora una volta abbiamo capito che il ventre molle del paese sta toccato nel suo punto più sensibile: cani, gatti e animali in genere. A domani.